si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori. Quando sono le 7:38, comincia una nuova puntata di Si può fare, il buongiorno del weekend di Radio 24. Cominciamo con i giornali di oggi, una veloce rassegna stampa, arriviamo fino al giornale radio delle 8, poi riprendiamo. Questa mattina il nostro Si può fare è questo: tenervi informati sul referendum che si voterà il 17 di aprile in Italia sulle trivelle. È giusto, non è giusto, non tanto trivellare, perché non è questo l'oggetto del referendum, ma è giusto o non è giusto che le concessioni date alle imprese che trivellano lungo i mari italiani alla ricerca del petrolio scadano, abbiano una scadenza, oppure, come ha voluto il governo, durino fino alla fine del giacimento, cioè vita natural durante sostanzialmente. Questo è quello su cui si vota e noi continuiamo a tenervi informati, perché è vero che non se ne sta parlando moltissimo. Adesso però iniziamo, vi ricordo i nostri contatti, la pagina Facebook Si può fare Tatino Radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio personale @ Le Maurizi, 349-238-6666, ci potete scrivere e poi naturalmente dopo il GR delle 8 torneremo a chiacchierare in diretta insieme al numero verde. Vai, iniziamo. Draghi, D'Alema, Renzi sono questi tre nomi principali che campeggiano sulle prime pagine dei giornali di oggi. Draghi perché a due giorni dalla decisione del Super Mario, governatore della Banca Centrale, di tagliare ancora i tassi, inondare ancora di più col quantitative easing e altre misure il mercato e le banche di un'iniezione monetaria, insomma, c'è stato l'effetto positivo sulle borse. Il primo giorno un po' di incertezza, qualche commentatore dice oggi forse i mercati hanno letto meglio quello che ha voluto fare Draghi. Renzi, perché di Renzi sempre si parla, soprattutto per la diatriba con D'Alema. D'Alema che, come sapete, ha usato parola al vetriolo contro questo PD di Renzi. E quindi questi sono un po' i temi principali su cui si barcamenano i giornali di oggi. Poi c'è l'inchiesta che ha portato a nuovi arresti, l'inchiesta sulla corruzione nell'ANAS, manco a dirlo, di buone notizie oggi sui giornali, sulle prime pagine dei giornali non ce ne sono, dovete aspettare la seconda parte di Si può fare, quando come sempre ogni sabato e domenica mattina vedremo se la nostra caccia di buone notizie ha portato dei frutti oppure no. Cominciamo col Corriere. Effetto Draghi, volano le borse, dicevamo, no? Milano migliore in Europa, più 4,8%, industria e produzione massimi dal 2011. Poi, sole 24 ore, effetto BCE, volano le borse. E c'è anche un approfondimento del Sole, come sempre la bussola per orientarsi sui provvedimenti, sulla efficacia dei provvedimenti, alta, bassa, eccetera. Cosa cambia per banche, imprese e famiglie? Speciale il bazooka di Draghi. Bazooka, lo sapete, è riferimento alle super misure che Draghi sta utilizzando in questi anni, che sono state ridefinite così, il bazooka. Il commento di Guido Gentili, che è un commento interessante, perché vabbè, intanto dice, comincia così: il boom dopo la mezza delusione iniziale. Forse i mercati hanno letto meglio cosa il presidente della Banca Centrale Europea Draghi gli ha mandato a dire con la svolta del 10 marzo. L'impatto analogo, se non superiore, a quella del luglio 2012, quando promise di fare qualsiasi cosa per salvare l'euro. Ora bisogna battere la deflazione e sostenere una ripresa debole e fragile. Draghi ha annunciato anche che la BCE in pratica pagherà le banche per finanziare le imprese e rilanciare l'economia. Economia reale. La sua avventura nel mondo dei tassi zero e sotto zero si è spinta su terre inesplorate e controverse, come dimostra la pioggia di critiche arrivata dalla Germania. Ma non è tanto questo, secondo me, la parte interessante, quanto quando poi Gentili si spinge ad un confronto, allarga l'analisi all'economia reale e ad alcuni aspetti contraddittori che ci sono nella sharing economy, per esempio, perché dice il sistema che si è andato costruendo attorno all'economia della condivisione è un esempio chiaro di come certi processi avanzano travolgendo con i loro imprevedibili modelli di business, schemi e passi e prassi, scusate, consolidate. Parliamo di aziende giovani o giovanissime, gestite da un'organizzazione o da un'impresa che grazie all'innovazione tecnologica consentono su base volontaria e su piattaforme di scambio modello persona a persona di far coincidere domanda e offerta dei consumatori per i più disparati servizi mediante pagamento di una tariffa, la messa a disposizione dei propri beni o altri servizi professionali. Di cosa parla Gentili? Di Uber, di Airbnb e di tutto quel mondo lì della sharing economy che ci sta cambiando la vita, ma che è evidente, aggiunge Gentili, che questi modelli di business frutto del nuovo dirompente internet capitalismo è a tutto favore dei consumatori, diciamolo, perché è questa la questione, si abbassano le tariffe e molte cose sono alla nostra portata più di prima, però pongono problemi seri, dice Gentili. Il concorso alla deflazione è tra questi. Concorso, cioè, a questo abbassamento delle tariffe e dei costi per avere certi beni e servizi, sostanzialmente ha un effetto in qualche modo depressivo sulla contabilità, sulla questione dei prezzi e sull'andamento dell'economia. Draghi prova a sua volta a reagire mettendo sul piatto il rilancio in grande stile dell'economia reale, immaginando che gli investimenti e la fiducia possano sostenere una ripresa debole e battere i prezzi zero e sotto zero. E questo era un commento che valeva la pena di essere letto sul Sole 24 Ore di oggi. La stessa notizia con punti di vista diversi, vediamo. Libero: dopo la bomba di Draghi, come evitare trappole in banca? Molti istituti inseriscono nei contratti di mutuo una clausola che blocca il tasso variabile sopra una certa soglia, il trucco aggiunto anche ai finanziamenti già stipulati. E intanto le borse volano. Che altro su questo argomento? Non molto, ci sono però, dicevamo, le altre notizie, a cominciare dalla questione D'Alema Renzi, che magari non interesserà tutti, anzi forse interesserà pochi, però forse per che so, l'elettore medio italiano ultra sessantenne, sentire D'Alema fa sempre un certo effetto. Ma sostanzialmente quello che sta succedendo è che in vista delle elezioni amministrative nel PD si scaldano i motori per provare a far fuori un altro segretario, come è stato fatto in passato un po' con tutti. È l'istinto suicida, possiamo dirlo senza offendere nessuno, del Partito Democratico. Ma al di là di queste chiacchiere, c'è un'intervista per esempio a Sergio Cofferati sul Corriere. Ora o mai più c'è tanto spazio a sinistra per un nuovo soggetto, dice Sergio Cofferati. L'ironia dell'intervistatore, Marisio del Corriere, che dice: in ordine sparso state andando verso il consueto 3-4%, cioè l'ennesimo partitino di sinistra, dice Cofferati. Ironia giustificata dal recente passato, ma io sono convinto che questa volta esista davvero la possibilità di far nascere un soggetto unito e competitivo che restituisca cittadinanza e rappresentanza alla sinistra italiana. Il PD ormai sta abbandonando il campo. E quali sono gli ostacoli a far nascere questo partito di sinistra? Domanda. I nostri vecchi vizi, i personalismi e poi le rendite di posizione. Cofferati, che fa un confronto tra la sua situazione quando ci furono le elezioni regionali in Liguria e perse le primarie, e poi il centrosinistra perse però le elezioni, perché il candidato Raffaella Paita, sostenuta da Renzi, perse le elezioni, fa lo stesso questo confronto con Antonio Bassolino a Napoli. Io e Antonio, dal PC fino al PD, siamo sempre stati su posizioni diverse, lui ingraiano, io amendoliano e via discutendo, ma vederlo oggi sbeffeggiato dal presidente del PD Orfini conferma che all'interno di quel partito ci sia un enorme problema di civiltà politica e di rispetto delle persone e delle idee. Traffico. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, ben ritrovati ascoltatori. La prima pagina del manifesto è un classico gioco di parole, peso massimo con la foto di D'Alema. Massimo D'Alema soffia sulla miccia delle primarie fatte apposta per falsificare e gonfiare. Poi spara zero contro Renzi e la sua linea di governo che lo vede alleato con Alfano e Verdini su Repubblica. Però c'è sostanzialmente uno stop ad ipotesi di scissione da parte di chi? Niente, proprio di meno che Pierluigi Bersani, l'ex segretario, e insomma anche lui un peso massimo all'interno del PD, che sostanzialmente dice questo: il PD di Renzi non va bene, quello che è successo nelle ultime primarie è disgustoso, ma dal PD non si esce, nel partito ci sono e ci resto con tutti e due i piedi. Questo proprio andando all'osso, sintetizzando la questione, che è questa: la sinistra del PD che sta dentro il PD non vuole uscire per il momento. Quindi poi ci sono anche i retroscena sulla reazione di Renzi che all'attacco di D'Alema, che dice sostanzialmente: vogliono indebolirmi, vogliono attaccarmi, siamo di fronte alle elezioni, la posta in palio è lo scalpo del segretario e il controllo del Nazareno, cioè del partito, vogliono far perdere il PD sperando di riprendersi tutto il partito. Però c'è una sede in cui possono sfidarmi, il congresso del prossimo anno, e lì vedremo chi ha i numeri. Fino ad allora niente polemiche da parte nostra, testa bassa e lavorare a risultati concreti. Altre notizie, altri titoli sui giornali di oggi, per esempio, restando alla politica e guardando al centrodestra, la Stampa si occupa con una pagina intera del caso di Roma: i gazebo per Bertolaso a rischio flop, l'unità a destra ormai compromessa. Succede che si inizia da oggi a votare per queste fanta primarie a Roma, dove c'è un solo candidato, Guido Bertolaso. Cioè, i romani sono chiamati a dire se gradiscono o no la candidatura di Bertolaso, senza però ovviamente avere alternative. Si sta impegnando su questa questione solo Forza Italia di Silvio Berlusconi, gli altri partiti sono sfilati, la Lega non gliene interessa di Bertolaso, ha detto in tutte le salse Salvini. Fratelli d'Italia nemmeno, Giorgia Meloni è alla finestra, perché se dovessero andare a votare meno di 20.000 persone per questo gradimento su Bertolaso, allora lei, pur arrivando quasi al settimo mese di gravidanza, il giorno delle elezioni, si candiderebbe. Forse è questo quello che è possibile, che si sta agitando nelle acque del centrodestra romano. Poi andiamo a, il Fatto Quotidiano, per esempio, si occupa di un'altra notizia che è una, come sempre, una specie di retroscena: Rai, Mediaset e De Benedetti, la spartizione da 300 milioni di euro. La pubblicità esce da Viale Mazzini, cioè dalla Rai, e va alla concorrenza. Perché, direte voi, questa uscita della pubblicità, degli investimenti pubblicitari nella Rai, che andrebbero a tutto favore dei De Benedetti, cioè dei suoi quotidiani, del Fresco Gruppo, la Stampa Repubblica e di Mediaset, le TV del Cavaliere? Perché è l'effetto canone, scrive il Fatto Quotidiano. I 500 milioni di euro in più garantiti dalla bolletta, dall'avere inserito il canone in bolletta, creano un extra gettito e il governo è disposto a riconoscere un risarcimento agli avversari. Dimagriamo sugli spot. Cioè, la RAI, che incasserà di più con l'operazione canone in bolletta, è disposta a fare un po' meno di introiti dalle pubblicità, a tutto vantaggio dei concorrenti. D'altra parte, non per fare l'avvocato difensivo di questa operazione, però se il servizio pubblico deve essere finanziato dal canone, è giusto che un po' di pubblicità esca, altrimenti la RAI resterà una TV commerciale come tutte le altre e diventa più difficile giustificare il canone. Cioè, o il canone lo togli e fai una TV commerciale, o lo fai pagare a tutti davvero e una volta per tutte gli spazi pubblicitari vadano ai privati e non al servizio pubblico. Vabbè, ma questo è solo il mio punto di vista. Invece c'è la prima pagina del Giorno ci ricorda di una notizia importante, e che questa è una notizia scioccante. Cioè, lo shock è avvenuto quando ci furono queste morti sospette all'ospedale di Ravenna, e adesso c'è l'ergastolo, la condanna all'infermiera. Il verdetto: paziente morta in ospedale per un'iniezione di potassio, ma il caso non è chiuso, le morti sospette sono almeno una decina. Succede che è stata condannata Daniela Poggiali, 44 anni, infermiera, per aver, con una iniezione di potassio nella fleba, ucciso una paziente. due anni di lavoro complesso e faticoso, i giudici hanno valutato che vi fossero prove solide a favore della colpevolezza, ha detto il PM titolare del fascicolo Angela Scorza dopo la lettura del dispositivo. Nella sua requisitoria l'imputata l'aveva descritta come una che non uccide per pietas, perché ha di fronte a sé persone anziane e moribonde. No, ma uccide perché si compiace di dare la morte, uccide per sfida e poi con spavalderia e metodo esercita l'arte della menzogna. Successe quella mattina nella stanza, c'era la figlia della paziente, l'imputata avrebbe semplicemente dovuto cambiare una flebo, ma aveva scelto di fare uscire la figlia della paziente chiudendo la porta, e da quel momento, prosegue l'accusa, aveva messo al servizio dei suoi intenti omicidiari la sua grande competenza infermieristica. La figlia, rientrando, aveva trovato la madre assopita prima del decesso alle 9:40. Secondo il canovaccio accusatorio, l'infermiera aveva fatto in tempo a depistare eventuali sospetti sostituendo il sangue prelevato poco prima per le analisi. Ma il caso non è chiuso, perché le morti sospette in quell'ospedale di Ravenna sono almeno 10. Ci fermiamo. C'è il giornale radio, noi riprendiamo subito dopo, ve l'ho detto, cominceremo con il nostro Si può fare, che è tenervi informati sul referendum del 17 aprile sulle trivelle e sulla trivellazione del petrolio in Italia. Ci risentiamo dopo. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno. Eccoci qua, ascoltatori, quando sono le 8:19 minuti e 34 secondi, ripartiamo con una nuova puntata di Si può fare dopo la rassegna stampa. Cominciamo con insomma, la nostra ricerca di buone notizie. Chissà se Alessio e Carlo ce la faranno anche oggi a trovare. Chissà se ce la faremo anche oggi, sì, a trovare dei Si può fare. Beh, qualcosa abbiamo trovato, secondo me, lo anticipo. Non dico cosa, però. Intanto... Ma anche perché spesso le notizie, come sì, ci diciamo. Non è tanto la notizia in sé, a volte è come viene interpretata o qualcuno che reagisce a una notizia. Si può, sì, reagire con un Si può fare a una, esatto, notizia. Quindi non è il fatto di trovare una bella notizia del tipo è nato un bambino, che va bene, è una bella notizia, però insomma. Oggi partiamo da questo Si può fare qua, cioè si può arrivare al referendum del 17 aprile sulle trivelle, sul petrolio, senza sapere niente, senza informazioni, un po' come sta avvenendo in questo periodo. No, non si può. Bisogna studiare. Bisogna studiare, bisogna prepararsi. Noi continuiamo a tenervi informati, a farvi sentire i vari punti di vista. L'altra settimana, due settimane fa, avevamo sentito Mario Tozzi, tra gli organizzatori e promotori di questo referendum, che è promosso da 9 regioni italiane contro la estensione della concessione delle trivelle sine die, cioè corrispondente a tutta la durata del giacimento petrolifero, perché questo è quello che ha fatto il governo, mentre prima le concessioni avevano un inizio e una scadenza. Ecco, oggi invece facciamo sentire un altro punto di vista, che è quello della sul lavoro, la preoccupazione sul fatto che si possano perdere posti di lavoro, quindi in caso. CGL. Sì, esatto, ci arriviamo tra poco. 800 24 00 24, e poi che di Milano Monterosa, Carlo, oggi buono, bello. C'è sole, bel tempo al momento, sole in arrivo, se si può dire. Ah, cari ascoltatori, per giocare con noi oggi ci vuole un tappeto musicale, vai, sentiamolo. Carissimo! Illusions are a common thing. Il tempo delle mele. Il tempo delle mele, avrete già capito forse, cari ascoltatori, dove vogliamo arrivare a parare. Posso dare un altro aiutino? Perché avevamo un dubbio fra questa canzone che ovviamente ci riporta al nostro passato, quando eravamo bellissimi e giovani, quindi stiamo anche un po' piangendo. Anche troppo giovani. L'altra ipotesi era C'è chi dice no di Vasco, c'è giusto? Allora, di cosa parliamo? Qual è la notizia? Sophie Marceau, protagonista giovanissima del Tempo delle Mele, si può dire icona sexy del cinema francese, fa un po' TG1, icona sexy del cinema francese. Vabbè, oggi ha 49 anni, donna bellissima, bellissima. Ha rifiutato la Legion d'Onore, il più grande riconoscimento in terra di Francia che si dà a tante personalità, e ha detto no, questa volta no, perché lo hanno dato anche a un principe saudita, ministro degli interni in Arabia Saudita, un paese, il riconoscimento gli era stato attribuito per la lotta al terrorismo e il contributo alla pace eccetera eccetera, ma lei ha detto sì, beh, in un paese dove ci sono state 70 condanne a morte lo scorso anno, quindi mi dissocio. Che è completamente. È sicuramente una questione di coerenza, anche apprezzabile. Il difficile, come sempre, è che siccome anche gli Stati Uniti hanno la pena di morte, allora uno dice non ritiro il Nobel perché è già stato dato anche un americano, è molto difficile. Però comunque sono prese di posizione, perlomeno abituati a tutte che invece dicono sempre sì e prendono tutto, e se c'è una poltrona, una medaglietta, o anche semplicemente una targhetta, ci si buttano, uno dice no perché non condivido. A noi questa cosa è piaciuta, questa coerenza, e ci insegna che si possono dire dei no, che servono a sentirsi meglio con noi stessi, alla nostra coerenza con le nostre idee eccetera eccetera. Quando, cari ascoltatori, voi avete detto un no che vi è servito, no a un aumento di stipendio doloroso perché magari vi chiedevano di fare qualche cosa che non volevate, no a un molto lavoro giusto, e poi magari ne avete trovato un altro migliore, più corrispondente a voi stessi. Un tempo si diceva i no che aiutano a crescere. Quindi in realtà noi cerchiamo due cose: da un lato sono i no che aiutano a crescere, che quindi sono di solito altre persone che ci dicono no per insegnarci, oppure quando si dice chiusa una porta si apre un portone, per esempio. E poi invece, forse più interessante in questo momento, i nostri no. Quando abbiamo detto no per coerenza, no per rimanere puri, no per rimanere della nostra idea, per difendere tanto, quello un po' di idealismo ci assolutamente vuole. 800 24 00 24, vi aspettiamo con i vostri racconti anche oggi in palio. I biglietti, credo, il catalogo, siamo ancora con Matisse a Torino. Vai, andiamo a iniziare. Carissimo presidente Crocetta, come lei ben sa, la provincia d'Agrigento, dove vivo anch'io, è la provincia più degradata d'Italia. Io di rispetto non le voglio mancare, preside, però una cosa mi permetta, gliela voglio proprio dire. Secondo me a ste trivelle una soluzione c'è. Non trivellare, che vedi che poi Gesù ti punisce. C'è rimasto solo il mare, e lasciatecelo stare. Preside, chi su è l'umale che fare? Di domare quanto è bello, spira tanto siempre in mente. Sì, curioso, mentre scavi stupir tuso, ma scordati l'unica cosa, cau petrolio non c'è sta. E vabbè, siamo partiti così oggi con Crocetta e la trivella. Allora, il referendum sulle trivelle, il nostro si può fare è questo, cari ascoltatori: tenervi informati di tutti i punti di vista che ci sono, dei rischi che ci sono, che non ci sono. Qual è il quesito referendario, per esempio, per il quale si vota? Lo voglio ricordare, è questo: la durata delle concessioni che il governo appunto concede alle compagnie petrolifere per estrarre il petrolio, una durata che aveva un inizio e una fine. Il governo ha, come dire, con una deregulation ha esteso la durata della concessione a l'esistenza del petrolio in quel giacimento. Finché c'è petrolio si può trivellare. I referendari avevano proposto 6 quesiti, ne è rimasto in piedi soltanto uno, tutti contro la possibilità di trivellare, e quello che è rimasto in piedi è quello che se la prende appunto con la durata e dice la concessione deve iniziare e finire, poi si ritratta, eventualmente si ricontratta, oppure se si decide di non trivellare più, eventualmente si smette di trivellare. Che... quindi in realtà non è che con il referendum noi stiamo decidendo basta trivelle. Bravo. È così, stiamo decidendo di la concessione deve avere una durata decisa, dopodiché si deciderà.

Insomma, continuiamo a parlarne, continueremo a farvi sentire degli altri punti di vista. Questo era quello appunto della CGIL, 800 24 00 24. Come possiamo sintetizzare? Ci sono degli investimenti importanti, lui dice, da fare. La durata, l'estensione, diciamo sine die, delle concessioni può essere un incentivo, altrimenti le compagnie potrebbero andare altrove ad investire e noi perderemo tutta questa nostra capacità produttiva. Una cosa va detta dal punto di vista del rischio ambientale, perché spesso il petrolio viene prodotto in paesi dove non si rispettano le norme ambientali, perché sono paesi che hanno condizioni sociali, politiche peggiori di quelle italiane, non so, pensiamo alla Nigeria. In Italia sicuramente l'estrazione del petrolio fino ad oggi è stata fatta nel rispetto di una serie di norme ambientali e anche della salute dei lavoratori. Certo, ci sono delle ricerche, una delle ultime è quella di Greenpeace, che accende l'attenzione sui rischi per la salute nel mare, perché ci sarebbero state trovate delle concentrazioni di sostanze tossiche in alcune pesci e crostacei nel mare, proprio per via, dicono loro, di come viene estratto il petrolio nel nostro mare. Questa è una questione aperta e quindi, insomma, bisognerà continuare a parlarne. 800 24 00 24, ascoltatori, ci risentiamo tra un attimo. Tempo in diretta. Previsioni a cura di Trebi Meteo. Buon sabato da Alex Guarini e gli ascoltatori di Radio 24. Sarà un'Italia spaccata in due nel corso di questo fine settimana, con le nostre regioni settentrionali e quelle del medio-alto versante tirrenico interessate da schiarite alternate ad annuvolamenti e rischio di deboli piogge soltanto questa sera tra Piemonte e Lombardia. Per il resto ci sarà bel tempo prevalente, mentre al centro-sud, specie sui versanti adriatici e le regioni meridionali, ci sarà una nuova ondata di maltempo con precipitazioni diffuse a carattere anche di nubifragio sui versanti ionici di Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con il rischio anche di temporali. Non mancheranno anche delle nevicate, anche abbondanti, sull'Appennino centro-meridionale, intorno ai 1000-1300 metri. Andiamo intanto a vedere le temperature, che non subiranno particolari variazioni da nord a sud della penisola, mentre i venti si rinforzeranno dai quadranti settentrionali, soprattutto al centro-sud. Con questo è tutto. Per aggiornamenti in tempo reale su questa nuova ondata di maltempo, scaricate l'applicazione Trebi Meteo su smartphone e tablet. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Carlo, tu usi l'autobus per fare i tuoi viaggi qualche volta, ti è capitato? Certo, sì, spesso. Sì. Guarda, domenica ero a Todi, per esempio, a Todi non c'è una fermata, non c'è la stazione dei treni. E quindi ho preso un pullman da Roma. Ero a Roma per la manifestazione il 5 marzo e ho preso un simpatico, tra l'altro comodissimo, devo dire, in un'ora e mezza, Roma-Todi. Tra poco una iniziativa interessante di sharing economy che riguarda proprio gli autobus, ma tra pochissimo. Adesso, ascoltatori, cominciamo con Claudio, che ci chiama da Roma. Buongiorno Claudio. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Rispetto al discorso della negazione, no? Sì. Sul posto. Questa è una storia circa 40 anni fa, penso. Io entrai in un grande supermercato e questo supermercato aveva vari reparti. Io entrai in uno di questi reparti, eravamo in quattro, c'era il capo reparto e tre di noi. E aspiravamo tutti a fare un vice capo reparto. Sì. È successo che, come oggi, anche allora, più quel merito, veniva portato avanti le pressioni da parte di conoscenti, amici, potenti. E io per tre volte mi negarono la possibilità di raggiungere, che poi era un premio per il mio comportamento. Alla fine, quando si accorsero che sia il capo reparto era interessato a me e il reparto andava in una certa maniera con altri personaggi, si rivolsero a me con la speranza che io gli dicessi di sì. Purtroppo è stato troppo forte l'orgoglio e tutto il dolore che avevo provato per quei 2 o 3 anni che mi hanno tenuto all'angolo. Ma si emoziona ancora, Claudio, a ricordare questa storia? Mi emoziono perché pensi che da quella negazione, sì, che poteva sembrare una cosa del tutto pessima per la mia carriera, si è dimostrata invece qualcosa di positivo, perché Poi me ne andai da là, entrai nella pubblica amministrazione e sto ha cambiato lavoro. Pensione, sì. Sto per andare in pensione. Felicemente. Ma quindi lei ha detto di no nel momento che le hanno proposto il ruolo di vice capo reparto? Lei ha detto. A un certo punto il direttore non ha potuto far meno perché vedeva che insomma io ero ben voluto, i clienti mi cercavano. Certo. Però il suo orgoglio nel fatto che l'avevano chiesto a lei come per ultimo. 22 anni ero un ragazzino che mi dicevano ma no, lascia stare, dentro di me c'era un qualcosa che mi impediva. Cioè, oggi la dignità è persa, lo vedete benissimo, no? Quindi Claudio, la dignità, l'orgoglio in questo caso l'hanno portata a dire no, un no di cui non si è pentito, anzi perché poi ha cambiato lavoro e felicemente ha fatto tutt'altro e ancora oggi a raccontare questa cosa si sente che si emoziona. È una storia, quanto è importante saper dire no in un certo momento, vedi? E poi è perfetto, sì, sì. Sono le storie che stiamo cercando, perché in effetti uno in questo caso era un premio, no? Era un avanzamento di ruolo e invece uno dice no, è troppo facile adesso. L'avete chiesto a tutti gli altri prima perché erano tutti raccomandati. Raccomandati sono raccomandati, ma purtroppo non sono in grado di portare avanti il supermercato. Dopo aver chiesto a tutti i raccomandati del mondo, lo chiedete a me che sono l'unico in grado, dico, allora sai che dico, c'è? Arrangiatevi. No. Fatti vostri. Questo vi chiediamo oggi, cari ascoltatori, quando, come ha fatto Sophie Marceau, che ha rifiutato la Legion d'Onore, avete detto no, con orgoglio, per la vostra dignità, per la vostra coerenza, per sentirvi meglio. 800 24 0024. Let's go, Richie Valens. Vi ricordo che tutte le canzoni che scegliamo per accompagnare le notizie del programma le ritrovate nella pagina di Si può fare sul sito di Radio 24. C'è la playlist di ogni puntata, le nostre scelte musicali di cui andiamo molto orgogliosi. Senti qua. Siamo molto ballerini oggi. Oggi si balla. Oggi si balla. Allora, parliamo di questo. Go Go Bus ha già debuttato un nuovo servizio di bus sharing nato dall'idea di due trentenni, Alessandro Zocca ed Emanuele Gasperi. E Alessandro è qua con noi. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti voi, grazie. Buongiorno. Allora, condividere per risparmiare è l'idea, come sempre, per quanto riguarda l'economia della condivisione, la sharing economy. Avete pensato di riempire gli autobus, no? È così? Esatto, noi intanto parliamo di autobus da noleggio, autobus da turismo, i classici autobus che avete in mente della gita scolastica, che nel frattempo sono migliorati senz'altro come comfort. Quelli con i 5 posti in fondo che tutti vogliono per tirare le caramelle. Casino. Esatto. Esattamente. E cantare quelli. Battisti. Esatto, non so se ci avete mai fatto caso che quando andate in autostrada almeno un terzo degli autobus che vedete girano vuoti. Questo perché? Perché spesso le aziende che fanno noleggio autobus si trovano a dover effettuare dei trasferimenti a vuoto. Per esempio, portano un gruppo in aeroporto che parte e questi tornano indietro la rimessa vuota. Portano certo. Un gruppo in una città d'arte che sta lì molto tempo, l'autobus torna a vuoto e li va a riprendere. Quindi si genera un sacco di tratte a vuoto che non sono sfruttate. Giusto, giusto. E qui arrivate voi. E lì vi inserite voi con un'app. Esatto, abbiamo un'app, un sito, una piattaforma e diversi canali di comunicazione. Mm-hmm. E come sta andando? Ma allora il servizio è partito da poco, abbiamo già diverse tratte, alcune molto interessanti, anche lunghe nord-sud, abbiamo già diverse richieste e quindi ci aspettiamo di fare dei buoni risultati. Ma quindi, scusa, sì. per capire, nel senso che da un lato c'è la possibilità di persone che dicono noi vorremmo andare da Milano a Bari e raggiunto un certo numero di persone è come se queste persone noleggiassero insieme un pullman, un bus e risparmiano, giusto? Esatto, questo era il servizio da oggi eravamo partiti. Esatto. Poi ci siamo accorti che in realtà c'è questa altra grande inefficienza che non viene sfruttata e quindi abbiamo anche implementato questo nuovo servizio che è appena partito. Anche perché okay. Se ho capito bene in quel caso invece non c'è più bisogno di raggiungere, chiamiamolo quorum, chiamiamolo numero legale, chiamiamolo numero minimo per poter permettersi di affittare un pullman. In quel caso lì, dei pullman che tornano vuoti, anche il singolo può dire: io avrei bisogno di andare da lì a lì, già che c'è il pullman vuoto, mi inserisco, pago poco perché tanto quello lo farebbe comunque il viaggio. È giusto, è così? È esattamente così. Infatti è un servizio che fino al riempimento è a un costo marginale nullo, quindi tutto quello che si ricava è tutto guadagno pulito. Senti, certo. Autobus pieno, pullman pieno, biglietto più basso. Quanto più basso? Ma si può risparmiare tantissimo rispetto a treno, autobus di linea, anche il 50%. Beh, non è poco, il 50% di questi tempi è buono. E bene, bene. L'applicazione, il sito si chiama GoGoBus, c'è anche, esatto, un'app. Raccontaci tutte le dove siete presenti, le piattaforme, come si fa, piattaforme. Prima però devo fare una domanda che è doverosa, sì, visto che Alessio si batte per non usare troppe parole in inglese. Volete essere chiamati GoGoBus o GoGoBus? Ma un po' come preferite voi, a noi va bene tutto. Qua è il commerciale che sta parlando, però noi volevamo una presa di posizione. Va bene, allora facciamo gli internazionali, facciamo GoGoBus. Va bene. E come dove siete presenti oltre che sul sito? Noi siamo presenti su tutti quanti i social, su Instagram, su Facebook e su Twitter. Abbiamo l'app per Android e per iOS e ci trovate un po' da tutte le parti, insomma. Qual è la tratta che sta andando meglio? C'è una linea su cui vi siete già inseriti meglio? Allora, per il momento diciamo che siamo ben presenti su tutto l'asse che fa Piemonte, Lombardia, Marche e Puglia. Per il momento questa è la tratta sulla quale abbiamo maggiore offerta. Anche per chi vuole tornare per Pasqua a casa, all'ultimo momento non ha trovato alternative a treni e voli pieni, abbiamo già delle offerte super interessanti. Per esempio? Ma possiamo andare fino ad Andria con 29 euro. Da dove, scusami? Da Milano, scusate. Milano-Andria 29 euro. Beh, esatto. Io non so quanto costa. E quante ore? Lunga, e quante però. Ore di viaggio? Ce ne vogliono parecchie, superano le 9 ore, però è un viaggio notturno, quindi il tragitto è abbastanza confortevole. Perché a volte sui pullman c'è questo dubbio, quando vedi anche dei viaggi lunghissimi di gente che dalla Polonia piuttosto che dalla Russia viene in Italia, però ti immagini sempre questi viaggi di 42 ore senza nemmeno fermarsi per andare in bagno. Per fortuna così lunghi non sono, i pullman, esatto, comunque sono diventati molto più confortevoli e moderni rispetto a una volta. Adesso. È vero, ne ho preso uno domenica perché andavo a presentare il mio libro e posso confermare. Grazie Alessandro, uno dei fondatori di GoGoBus o GoGoBus, che dir si voglia, la nuova app per condividere l'autobus e risparmiare sul prezzo del biglietto. Molto bene, ci fermiamo per il giornale radio, torniamo subito dopo. 800 24 00 24, vi aspettiamo. Ascoltate. Chiamate anche per il gioco. Radio 24, Sky 1 e RDS ti aspettano per le selezioni di RDS Academy, l'unico format TV che ti apre le porte del mondo della radio. Invia ora il tuo provino tramite l'app o su radio24.it. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sempre voglia di prendersi per mano e girare in circolo come fanno i bambini. Oggi proprio balliamo e cantiamo All Together Now dei Beatles. Veramente viene voglia di prendersi per mano, fare il giro tondo come fanno i bambini, tutti uniti, tutti insieme. Allora, cari ascoltatori, andiamo a Roma, dove oggi in quattro piazze della città, ma anche a Ostia, tante persone si prenderanno per mano, soprattutto prenderanno per mano la loro città, cercando di ripulirla, di dargli una... Di riprenderla anche un po', di riprenderla in mano. Si chiama Wake Up Roma, l'iniziativa è con noi, Luigi Capello, buongiorno. Buongiorno. Che è una delle menti da cui è partita questa iniziativa, fondatore di Luisen Labs, acceleratore di startup, da cui proprio è nata questa idea, Wake Up Roma. Quali sono le piazze intanto? Diamo subito l'appuntamento. Allora, su Roma abbiamo tre piazze più una Ostia. Allora, le piazze di Roma sono Piazza Vittorio, Villa Paganini e Porta Maggiore. E poi abbiamo un'altra piazza Ostia. Piazza Ancomarzio. Esatto, giusto. Perfetto, grazie. Come nasce questa idea, Capello? Da dove arriva questa idea? Sì. Ma diciamo questo, noi siamo creatori di start-up, per cui significa... Noi abbiamo tantissimi ragazzi, ne abbiamo circa 100, e proprio da loro è nata l'idea. Insomma, quest'estate, con un po' i fatti di Roma, diciamo così, per fortuna c'è stato qualcuno che ci ha detto: ma sì, dobbiamo fare qualcosa per aiutare questa città. E così ci è venuto in mente a settembre-ottobre di fare questa grande iniziativa, una giornata dove oggi ci attendiamo migliaia di cittadini che verranno, come dire, in piazza con le scope, con raschietti, eccetera, eccetera, per dare un po' la sistemata. È ovviamente un fatto simbolico. Certo. Però poi ci si dà anche da fare. Avete tutto in ordine per quanto riguarda, cioè non è che magari uno si mette lì a raschiare una scritta su un monumento e porta via una roba del 1600 e succede che arriva la sovrintendenza e vi porta via tutti? Esatto, no, come dire, sappiamo, è tutto organizzato, sappiamo dove si deve pulire, cosa si deve fare. Ecco, cosa si deve fare assolutamente. Abbiamo organizzato dei gruppi, è un'organizzazione, posso dire, come una piccola battuta, semi-paramilitare, ecco, dove ci sono dei capigruppo che daranno istruzioni su quello che si deve fare, e poi da queste piazze ci dirameremo in tutte, come dire, le strade intorno, insomma, ecco, per cui contiamo di essere migliaia e di dare un po' un segnale oggi che Roma si vuole, come dire, ribellare a un certo modo di fare. Ma il prefetto, no? Il prefetto Francesco Paolo Trocca, che al momento, diciamo, è il capo di Roma, è quello che è commissario. Il commissario, cioè è l'imperatore, tutto lui. Come ha reagito a questa vostra sollecitazione? Intanto verrà, perché l'avete invitato, credo, no? Sì, l'abbiamo invitato alle ore 11, adesso poi se verrà lui oppure un suo, come dire, rappresentante. Però quando bisogna usare il raschietto conviene andare in prima persona, perché mandare un rappresentante è un po' facile. È un po' troppo facile. Sì, scherzo ovviamente. Quindi lo aspettate, speriamo che arrivi, sarebbe comunque un bel segnale, anche perché ovviamente lui è un prefetto, quindi è un profilo non politico, non è che uno che deve per forza fare dichiarazioni ed esporsi sui giornali tutti i giorni, però da quando è arrivato così ci si ha un po' la sensazione che Roma così si vaghi un po' nel vuoto, ecco, lo diciamo noi che non siamo di Roma, non lo voglio far dire a lei perché ha un ruolo pubblico e magari non vuole dire qualcosa contro il prefetto, ma non è una cosa contro il prefetto, è proprio che è così, cioè Roma adesso si aspetta che qualche cosa succeda. Senta, come si spiega invece questa fatto che voi, come vi spiegate questa energia, questa passione per una cosa? Qualche anno fa sarebbe sembrato impossibile, cioè fare un appello a dire romani svegliatevi sabato mattina per andare a pulire le strade, non sarebbe venuto nessuno. Ma direi che, come dire, c'è grande consapevolezza nella città, il disastro è stato sotto gli occhi di tutti, questo è finito, vogliamo, come dire, da cittadini voltare pagina. C'è un'energia incredibile in questo momento a Roma, ci sono migliaia di giovani, noi lo vediamo, che vogliono fare start-up, che vogliono fare iniziative, attività commerciali, ecco, per cui sicuramente nei momenti di crisi statisticamente partono sia nuove aziende che nuove iniziative, e questa è un'iniziativa che è partita, come dire, in un momento di crisi, che vogliamo dare un grosso segnale, per cui oggi contiamo di essere migliaia, e così sarà, come dire, questo sarà il segnale più evidente. Esatto. Senta, la notizia mi sembra da un lato bellissima, le volevo fare una domanda che fosse stupida, che mi incuriosiva. Ho visto che l'AMA, che è l'azienda municipale per l'ambiente, insomma, il corrispettivo dell'AMSA di Milano, è un partner tecnico dell'iniziativa. Io adesso non voglio riaprire la questione quando Gassman disse dobbiamo pulire noi la nostra città, e qualcuno rispose ma perché dobbiamo pulirla noi quando paghiamo delle persone per pulirla. Mi chiedevo, dal momento che la stessa AMA è uno sponsor tecnico, non fa un po' strano? Nel senso, non c'è nessuno che va in piazza e dice molto bello che questo sia uno sponsor tecnico, però in realtà voi dovreste pulirla la città. Ma guardi, allora è tutto vero, però diciamo questo, che innanzitutto è una forza in più che mettono, per cui oggi ci saranno, come dire, un certo numero di gruppi con autobotti, con lance per l'acqua e quant'altro, ecco, per cui in maniera, come dire, anche un po' superiore rispetto alla polizia normale. Però io direi questo qui deve essere, secondo me, indipendentemente dallo sforzo tecnico, ma deve essere un segnale che i cittadini romani si vogliono, come dire, un po', diciamo, wake up, svegliare, insomma, ecco. Condivido. Come diceva prima, è una questione simbolica e quindi va benissimo che ci sia anche l'AMA. Posso solo aggiungere questo, in tutte le città del mondo c'è sempre una giornata di pulizia, anche nelle città ben tenute, per cui voglio dire, sono giornate simboliche dove i cittadini si rimboccano le maniche, probabilmente anche per spronare AMA a fare meglio, diciamo. Per svegliare il senso civico. Quella in realtà. Cosa che diceva Carlo è importantissima, c'è un ente preposto, un'azienda pubblica che deve occuparsi della pulizia e si occupa con risultati magari non sempre brillantissimi, potrebbe essere una metafora, una parola non usata a caso su Roma, però credo che si può dire, Capello, che per esempio a Milano sui cestini dei rifiuti in città hanno messo la scritta fatta attribuire quella frase a Gandhi, in cui diceva sì il cambiamento che vuoi vedere nel mondo, cioè datti da fare tu per primo per fare quelle cose che vorresti che gli altri facessero, no? È un po' questa, quindi è un po' questo il messaggio, cioè Roma è un problema di tutti, quindi anche del singolo cittadino, non buttare la carta in strada, non dico andare a spazzare tutte le mattine sotto casa, però... Esatto, ma guardi, oggi abbiamo l'adesione anche di numerosi turisti, abbiamo intercettato società che, diciamo, di travel che stanno, diciamo, anche turisti internazionali verranno a pulire, come dice, la città insieme a noi, per cui è questo un po' il simbolo, insomma, tutti vogliamo bene a questa città, in particolare chi vive qui, che ci vive tutti i giorni, per cui questo è lo sforzo che vogliamo fare. Senta, però ci tolga anche un'altra curiosità, ma Gassman, che prima Carlo ha citato, alla fine aveva fatto la campagna Roma sono io, si era fatto ritrarre con la scopa in mano perché era tornato dall'Uruguay dove faceva il film, gli avevano detto Roma sei tu, ma se stai in Uruguay non puoi occupartene o hai una scopa lunghissima. Oggi c'è o non c'è tra i vari testimonial che avete ingaggiato? Ma allora, noi oggi di testimonial siamo pieni, per cui adesso se Gassman c'è o non c'è, francamente, vuol dire un problema suo. Noi ne abbiamo tanti altri, abbiamo Lanzini, abbiamo ne abbiamo altri che, insomma, trovati i nomi sul sito, per cui dico francamente, se ci vuol venire a dare una mano sarà, li dico io i nomi, li dico io: Edoardo Vianello, Enrico Vanzina, Cesare Bocci, eccetera eccetera. Vabbè, no, la mia era la nostra, era una provocazione, era una provocazione perché Gassman, se ci sarà, non lo so, che ha molti follower, ha un profilo social abbastanza attivo, aveva lanciato questa provocazione Roma sono io, nel momento in cui si parlava della giunta Marino, le responsabilità della giunta eccetera eccetera, quindi il concetto era un po' lo stesso che avete sollevato voi, poi se ci sarà o non ci sarà, questo giustamente, come diceva lei, è un problema suo. Certo, invece la cosa che ho apprezzato molto, perché è una cosa che mi chiedo sempre, è il fatto che uno dei punti è anche togliere gli adesivi dai pali. Perché mi faccio sempre questa domanda, perché in effetti li vediamo sempre pieni gli adesivi, tutti attaccano adesivi ma nessuno li stacca mai effettivamente. Io mi chiedo sempre, ma chi è che stacca gli adesivi, perché ovviamente sono abusivi, insomma, sono io non è che sia particolarmente contrario che si possa appiccicare degli adesivi su un palo. Infatti io farei quasi un regolamento, che però forse è troppo stupido, e quindi le volevo chiedere conferma, cioè sarebbe bello che in realtà ognuno potesse appiccicare il proprio annuncio, però per ognuno prima di appiccicarne ne devi staccare 5, se tu stacchi 5 adesivi poi attacchi il tuo, quelli vecchi e a quel scaduti. Punto sarebbe, esatto, sarebbe sostenibile tutto ciò. Tutto corretto. Io posso solo dire, dire da ogni volontario, che staccare gli adesivi è una cosa faticosissima. Immagino. Guardi, che lavorare dopo 2-3 ore con raschietto, insomma, in piedi, verso l'alto, eccetera, non è una cosa banale. Poi scusate, ma questi pali. questi pali di alluminio non è che siano bellissimi. Per cui secondo me se anche c'è qualche adesivo, ma anche se no. Cioè, preferite il palo di alluminio. Ci sono talmente tanti adesivi che rischiano di invadere la carreggiata della strada, quindi va bene, grazie, buon raschietto, Buona scopa in mano. Benissimo, grazie molte. Grazie a voi. Arrivederci. Questo era Luigi Capello del Luis & Labs, uno delle menti da cui è partito Wake Up Roma, appuntamento in quattro piazze. Cari romani, andate: Porta Maggiore, Vittorio Emanuele, Villa Paganini e ad Ostia Piazza Anco Marzio. Se non altro per vedere così che l'effetto succede, che fa. L'effetto che no, fa. È molto bello perché hanno aderito anche un sacco di stranieri, ce lo stava anche dicendo il nostro ospite, oltre ai turisti anche proprio diverse comunità straniere presenti a Roma, e questo mi sembra bello per il solito motivo, che per amare Roma non bisogna per forza essere Roma. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing more. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. The warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call. We rise and we fall, dancing in the moonlight. Don't we have it all? Questa è Si Può Fare, questa che abbiamo appena ascoltato è Reality dei Lost Frequencies. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando di Si Può Fare in musica, infatti questa canzone che abbiamo appena ascoltato ci è stata segnalata da Gabriele da Cologno. E Si Può Fare in musica, ovvero se siete dei cantanti, dei musicisti, dei compositori, anche semplicemente degli ascoltatori, trovate una canzone che vi piace, che secondo voi racchiude il concetto di Si Può Fare, vi chiediamo di segnalarcela. Segnalarcela così poi noi la faremo ascoltare, ce la potete segnalare sui nostri account social, quindi Si Può Fare trattino Radio 24 su Facebook, oppure chiocciola Si Può Fare 24 su Twitter, oppure sui nostri account personali. Il mio è chiocciola Carlo Gabardini e c'è anche il mio chiocciola Ale Maurizi. Questa mattina, cari ascoltatori, siamo partiti dal referendum del 17 di aprile sulla trivellazione di petrolio in Italia. Abbiamo fatto sentire la voce dei lavoratori chimici della CGIL, il segretario Miceli, che esprime sostanzialmente un no al referendum e un sì alle trivelle, perché bisogna portare avanti l'occupazione in questo settore, dice Miceli. Poi poco fa abbiamo sentito Wake Up Roma, l'iniziativa che invita tutti i romani ad andare in quattro piazze a ripulire, scopa alla mano, le piazze della città, per dimostrare che la città siamo noi e tutti bisogna fare qualcosa. Cosa ne pensate? 800 24 00 24, siete d'accordo oppure pensate pago le tasse e pretendo il servizio pubblico di pulizia, punto fine? A Milano si dice pago, pretendo. Certo. 800 24 00 24. Tra poco parliamo di olio italiano e olio tunisino. E qua si apre tutta un'altra vicenda. Intanto però vogliamo anche gli ascoltatori che ci raccontino i loro no. I loro no. Abbiamo avuto una bellissima storia di chi ha detto no a una promozione sul posto di lavoro. Cerchiamo altre storie in seguito al no di Sophie Marceau alla consegna della Legion d'Onore. Stefano da Roma, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. È un piacere ascoltarvi, un onore parlarvi. Grazie mille. Prego Stefano. Io volevo solo raccontarvi in 10 secondi. Sì. Giunto all'apice della mia carriera manageriale, tutta rigorosamente nel settore privato, mi sono lasciato sedurre dalla tentazione di accettare il ruolo di direttore generale in un importantissimo ente pubblico. Quando dice mesi. Importantissimo, sottolineiamo issimo, proprio. Ma no, mi sono esagerato, mi sono lasciato prendere dall'enfasi. Gestivo 4.000 uomini e un budget. Non ci vuol dire qual era l'ente pubblico? Così. No. ma forse è meglio di no. Comunque ora continuo, poi decidete voi se è il caso, se ha senso. È Alessio che è a caccia dello scoop, non si preoccupi. E quindi... Comunque siamo in 5 mesi che sono stato lì, mi sono reso conto di essere passato da quello che io ritenevo un ambiente problematico come il settore privato nell'inferno autentico, dove una persona per bene non dovrebbe mai trovarsi, perché immediatamente ti ritrovi di fronte a richieste di firmare massime urgenze, voi capite a cosa mi riferisco, a spezzettare gare miliardarie, per cui se tu non accetti queste cose la vita ti viene resa impossibile. Ma qual è il no, Stefano, che lei ha dato, che ha detto, o che avrebbe voluto dire? Io sono andato via, dopo 5 mesi ho dato le dimissioni, sono scappato via e mi sono rivolto alla magistratura, perché la cosa che tu ti rendi conto... Ha fatto delle denunce proprio? Io ho denunciato alla magistratura, solo che stranamente il procuratore che seguiva l'inchiesta poi fu trasferito a indagare su degli scippi e dei piccoli episodi di mala... Quindi non è così semplice. Però scusi Stefano, lei poi di fatto, se ho capito bene, è rimasto senza lavoro, perché ha rinunciato al suo incarico di prima per entrare nella pubblica amministrazione, ha detto no perché non le piaceva quello che vedeva, e poi com'è finita? È finita che lei si ritrova in un ambiente dove non lavori per anni, come è capitato a me, e dove per ritornare a fare delle consulenze ho dovuto fare un lavoro immane, perché chiaramente tornare nel settore privato non è che una... Però la questione vera, Stefano, è lei, dopo aver rinunciato a questo incarico, dopo aver detto questo no, si è comunque sentito meglio, l'ha fatta stare bene, ma essere coerente con se stesso? Si è pentito. Bravo, questo è l'importante. Ma io stavo impazzendo, cioè rimanere lì, quando si parla di enti pubblici, chi ne parla con molta superficialità oppure ritiene che si possa travasare la managerialità del privato nel pubblico, è un'utopia pura. Comunque, noi siamo contenti che lei si sia sentito meglio, anche se resta un po' un aspetto, no? Quello quasi di avere rinunciato a poter cambiare le cose, a farle andare meglio. Lei aveva forse anche questa possibilità. Questo potrebbe essere un piccolo rimpianto, Stefano, no? Si ritrova di fronte a consigli di amministrazione che arrivano a numeri importanti, e dove il più cretino che siede è un ex deputato. Va bene, Stefano, abbiamo capito che la ringraziamo, che è così, anche perché ha detto una frase che è anche bella e grave, se vogliamo, quando ha detto è un inferno autentico dove una persona onesta non dovrebbe mai trovarsi. Poi giustamente noi speriamo ancora che invece si possa cambiare anche dall'interno, quindi speriamo che questo inferno lo si possa trasformare perlomeno in un purgatorio. Magari chi è arrivato dopo di lui ha provato come dirigente a far funzionare un po' meglio le cose. Marco dalla provincia di Fermo, buongiorno Marco. Buongiorno a tutti e complimenti per la trasmissione. Grazie mille. Prego Marco. Ma io volevo aprire un attimo un dibattito sul discorso delle trivelle. Io sono un nostromo, lavoro sui supply vessel di una nota società italiana in Adriatico. Scusa, sei un nostromo? Nostromo. A noi ignoranti cosa vuol dire il nostromo? Sei un comandante? No, sottufficiale che comanda il lavoro dei marinai in coperta. Ok, e per noi ignoranti che guardiamo la televisione, per noi nostromo è quello che vende del tonno. Esatto. Chiediamo scusa. Marco, e sei imbarcato su una nave, che cosa fa esattamente? Noi facciamo assistenza alle piattaforme offshore in Adriatico. Perfetto, quindi stai nel settore dell'estrazione del petrolio. Dell'offshore, dell'estrazione del petrolio, cioè erroneamente chiamate estrazione del petrolio, perché ricordiamoci che in Adriatico c'è il gas. Noi siamo forse uno dei pochi paesi che ha una ricco giacimento di gas in Adriatico. Però c'è anche il petrolio o c'è solo il gas in Adriatico? C'è ecco, questa è una cosa che a me diciamo fa veramente tristezza, perché la gente trivellazioni di qua, destra, sinistra, petrolio, inquinamento. Non dimentichiamoci che gli standard di sicurezza in Adriatico oggi sono elevatissimi. Ci sono società, tanto senza fare nomi, EPI, Eni, Saipem, eccetera, eccetera, che lavorano con degli standard molto alti di sicurezza. E io sarei più, diciamo, demoralizzato a vedere qualcuno che butta un mozzicone per terra o per le spiagge, quello diciamo un inquinamento maggiore. Noi non estraiamo il petrolio, estraiamo gas. e quindi perdonami, solamente per capire, ma quando si parla di trivellazioni si parla quindi anche di gas, o forse solo di gas addirittura? O le trivellazioni? Si parla di gas. Perfetto. Sì, trivellazioni sono gas, petrolio, può esserci, poi dopo certo ci sono le varie tecniche di estrazione. No, pensavo che le trivellazioni fossero solo per il petrolio, invece no, ci stai dicendo si chiama trivellazione anche quando si va a cercare il gas. In Adriatico c'è solo gas. Esatto, c'è solo Perfetto. Gas, si va a cercare il gas, quindi si crea un pozzo che non deve collassare naturalmente perché il gas ha altre pressioni, e gli incidenti comunque sono rarissimi. È più facile che cada in un aereo che magari salti in aria una piattaforma. Comunque ci sono tecnici, ingegneri, geologi, insomma, e secondo me la gente si sta avvicinando anche a questo fatto qui delle piattaforme, che comunque anche nell'Alto Adriatico sono vicine a Ravenna. Andiamo a votare, leviamo le piattaforme, quando non sanno bene che comunque società estere, se vincerà questo referendum, società estere potranno operare oltre 12 miglia marine, quindi ce li ritroveremo sempre comunque in Italia, perché comunque il tubo che va a trivellare si può estendere oltre acque territoriali. Sì, è chiaro che il referendum ha una efficacia all'interno del cosiddetto mare territoriale. Una cosa però voglio chiederti: il discorso sul fatto che si estrae petrolio, non si estrae petrolio, ma gas, non esclude quello che invece è stato detto, per esempio, da Greenpeace, che ci siano sostanze inquinanti in mare. Non è che l'estrazione del gas sia indenne da ogni rischio, questo bisogna pur dirlo, eh? Non è che il gas sia di per sé 100.000 volte meglio del petrolio dal punto di vista dell'impatto ambientale. Poi, come abbiamo sentito dire anche da Miceli della CGIL, in Italia siamo bravi a farlo, non ci sono stati fino ad ora disastri ambientali, a meno di non scoprirlo proprio in questo momento, magari, che ci sono delle sostanze inquinanti, per esempio nel mare Adriatico. Pronto? Ci sei ancora? Sì. Eccomi, sarei bugiardo, ecco, ascoltavo infatti, sì. No, mi rifaccio a quello che diceva comunque il segretario, sarei bugiardo a dirti che comunque per l'estrazione non vengono usati prodotti chimici, questo esatto, assolutamente, certo. Però sicuramente vengono dosati e attuate tutte le procedure di sicurezza, per cui un disastro ambientale o comunque un inquinamento minimo, secondo me, è da valutare, e non sono la persona che può dirlo. Va bene, ovviamente, ma posso... che penso di Greenpeace, sinceramente, vabbè, se vogliamo parlare di Greenpeace, che sono andati 2 anni fa in Campo Azzeco a rovinare una scultura di 10.000 anni fa, parliamo di altre cose. Cioè, certo, comunque... ma se mi permetti di aggiungere una cosa, più se ne parla di queste trivellazioni, più mi sembra un quesito che forse non è giusto che siamo noi ad andare a votare con un referendum. Mi sembra una roba veramente per esperti. Che cosa possiamo saperne noi, 60 milioni di italiani, sulla cosa tecnica della trivellazione, il tunnel, il gas, il petrolio, gli agenti chimici? Cioè, mi sembra molto difficile, non mi sembra la domanda da fare a un referendum, o sbaglio? Ma chiudo un attimo velocissimamente, saremo dopo costretti comunque a comprare quantità di gas all'estero, con tutti i relativi prezzi aumenti del caso, quando noi comunque abbiamo la fortuna di accendere la mattina nelle nostre case il fornello e pensare che questo il gas arriva il gas a chilometro zero, come si potrebbe dire. Grazie Marco, perché grazie. Viene stato in Italia. No, sul quesito, però io voglio ricordare il quesito per cui si vota, il quesito non è tanto un quesito tecnico, secondo me, perché è sulla durata delle concessioni. È giusto Vero. Che le concessioni inizino e finiscano, oppure, come vorrebbe il governo e contro cui è stato fatto questo referendum, le concessioni durano di più finché c'è il petrolio o il gas nei giacimenti, quindi dare alle compagnie la possibilità, una volta fatto il contratto, di andare avanti per 5, 10, 20, 30, 40 anni finché c'è il gas. Questo, su questo si vota, quindi è giusto ricordarlo. 800 24 00 24, credo che abbiamo una pausa che ci aspetta. Sherry, sherry, una notte così, vuoi che non sia made in Italy? E tu, sherry, devi dirmi di sì. Oh, Sherry Sherry. Made in Italy, ricchi e poveri, è arrivato il momento di affrontare la spinosa questione dell'olio tunisino e dell'olio anche italiano. La sintesi è perfetta comunque, Made in Italy, ricchi e poveri. Esatto. Sembrava l'annuncio di una canzone, in realtà era la sintesi della nostra storia. Come avrebbe detto Peppino De Filippo, ho detto tutto. Esatto. Ho detto tutto. Noi abbiamo convocato per parlare di questa questione qua un punto di vista, il punto di vista di un produttore d'olio, un ristoratore, è stato consulente a Expo, è anche docente della scuola di alta salumeria, un importante centro d'eccellenza italiano di Bologna. Io lo chiamerei Mastro Olearo, Gino Celletti. Buongiorno. Buongiorno. Vabbè, una eccellenza nel campo, insomma, anche della divulgazione, del capiamoci, no, di cosa stiamo parlando. Allora, la notizia prima di tutto: l'Europa ha dato il via libera ad una importazione aggiuntiva di 35.000 tonnellate di olio proveniente dalla Tunisia senza dazi aggiuntivi. Apriti cielo, è sbagliato, dobbiamo difendere l'olio italiano. Qualcun altro ha detto, ma come? Si dice sempre aiutiamoli a casa loro, i paesi nordafricani che sono in difficoltà, una volta che gli si consente di esportare un po' d'olio. Vabbè, insomma, sono tante le posizioni. Celletti, intanto la domanda: a noi piace l'olio italiano, intendiamoci, ma l'olio tunisino è buono o fa schifo? Mi permetta di fare un chiarimento. Io sono anche un capo panel del Consiglio Oleicolo Internazionale e sono il responsabile della chimica dell'International Olive Foundation e quindi ho una visione piuttosto ampia di quello che mi state chiedendo. È per quello che non l'abbiamo, l'abbiamo chiamata apposta, non è che abbiamo preso l'elenco a caso. Noi a Milano abbiamo un panel di assaggiatori bravissimi che assaggiano l'olio e assaggiano anche quello tunisino. Allora, diamo una base di ragionamento a chi ascolta, che saluto sin d'ora. Al mondo ci sono circa 1500 varietà di olive che vengono chiamate cultivar, cultivated variety, e in Italia ne abbiamo più di 600. Uh-huh. Questa differenza non è soltanto una differenza del luogo, cioè quelle che crescono qua e crescono lì, no, le cultivar italiane sono, diciamo, tra virgolette più nobili, perché hanno dei dati scientifici e sensoriali diversi, cioè la quantità di acido oleico, la quantità di grassi monoinsaturi che fanno bene da noi sono più alti. Okay. E sono più alti anche i famosi polifenoli, quelle sostanze che allungano la vita. Bene, insomma, sono olive migliori. Si sa che l'olio italiano extravergine è una eccellenza assoluta. Non solo questo è indiscutibile. Noi abbiamo anche una varietà di profumi diversi, ci sono gli oli che sanno di pomodoro siciliani, toscani che sanno di carciofo, i puglietti che sanno di prato, insomma noi abbiamo delle cose eccellenti. Detto questo, non vuol dire che l'olio tunisino non sia buono, hanno le loro culti, la Schemlali di Sfax, altre varietà, la Mesc, eccetera, che sono altrettanto buone, ma il Padre Eterno le ha dotate un po' di meno, no? Ecco. E poi cosa c'è di diverso? C'è il clima. Sì. Da loro fa caldo, da loro c'è bisogno di irrigare, da loro ci sono meno soldi per attivare frantoi moderni, per attivare coltivazioni moderne, e quindi si fa un po' della preistoria. Detto questo, in modo da ragionare un po' su quella che è la realtà, questo olio tunisino che arriva in Europa va visto in tre modi. Uno, sull'aspetto qualitativo, quindi la qualità. Due, l'aspetto del prezzo, quindi il business. E tre, l'aspetto politico. Lasciatemi perdere sul terzo perché ognuno potrebbe dire la sua. Certo. Mi fermo sui primi due. La qualità. Quest'olio tunisino che arriva quest'anno in Europa è un olio non di quest'anno, perché quest'anno la Tunisia ha avuto una siccità enorme. Quindi quella è olio vecchio? È olio vecchio dell'anno scorso? Io ritengo di sì, perché l'olio dell'anno scorso non c'è stato, perché c'è l'anno scorso, della raccolta 2015-2016, è stato pochissimo. Hanno avuto lo stesso problema che noi abbiamo avuto 2 anni fa, no? Vi ricordate che la Toscana ha fatto meno 70%? Sì, certo, certo. L'Italia in totale meno 46%, la Spagna meno 40%. Quindi mi dà l'idea che quest'olio che arrivi da noi sia un po' uno svuotare i magazzini, i giacimenti, i magazzini. E ricordiamoci che l'olio scade, perché non è che può andare avanti tutta la vita. L'olio ha una durata che secondo le normative europee sono 18 mesi dalla data di imbottigliamento, esatto. Quindi poi dovrebbe essere anche quella di raccolta. Ma diciamo che noi abbiamo oli, specialmente oli importanti pugliesi, toscani, umbri e siciliani, che possono resistere anche 4-5 anni, perché la durata di un olio dipende da quanti polifenoli ci sono dentro. Però ecco, sì, ecco, Celletti, abbiamo già detto un po' di cose, insomma lei ci ha detto della qualità, l'olio tunisino, cioè l'olio italiano è un'eccellenza assoluta, l'olio tunisino ce n'è di buono, quello che sta arrivando potrebbe essere olio vecchio, il prezzo, lo sappiamo, è un prezzo più basso. Ed è il motivo per cui questo olio poi conquista fette di mercato, parliamoci chiaramente, però al di là di tutto questo, no, possiamo dire una cosa, cioè al di là di questi 35.000 tonnellate che sono magari non sono tantissime, l'Italia non produce quanto consuma, quindi comunque siamo destinati a importare un po' d'olio. Possiamo dire che una cosa fondamentale è la trasparenza delle etichettature, che deve essere migliorata, portata al massimo. Cioè io devo sapere che vado a comprare un olio, che è un olio italiano, oppure un olio mescolato senza bandiere tricolori o peccionate che fanno pensare al consumatore, che non si sta a leggere tutta l'etichetta, che quello è un olio italiano quando non lo è. Ma avete toccato un tasto fondamentale. Io qualche tempo fa ho scritto per l'olio l'etichetta con il burka. Cioè, qui ci sono delle norme europee. Ma in che senso l'etichetta con il burka? Cioè, spieghi questo. Te lo spiego subito. Ci sono delle norme che sono state fatte apposta per nascondere alcuni parametri qualitativi. Se io oggi su un'etichetta italiana ci scrivo quanti polifenoli ci sono, cioè ci scrivo quanto oro ha quell'olio, mi fanno la multa. Non lo puoi scrivere, addirittura è vietato. Non lo posso scrivere, perché qualcuno ad alto livello si è inventato che tanto tutti ce l'hanno i polifenoli e quindi è un parametro uguale per tutti e quindi non lo devo scrivere. Sbagliato, perché gli oli piccanti e amari che fanno bene hanno più polifenoli degli altri. Se però vado negli Stati Uniti, il produttore italiano deve cambiare l'etichetta, perché là lo vogliono sapere. Giustamente, chiama di scena. Giustamente sì. Scusi Celletti, che lei ha una verve comunicativa, lo sentiamo, notevole, si appassiona, giustamente, è un tema importante anche per noi. Gli americani dicono la loro, perché gli americani stanno diventando grandissimi consumatori del nostro olio buono, vero? È certo, gli americani, i giapponesi, certo, perché questi non sono mica stupidi, hanno capito che questo prodotto non è soltanto una questione di piaceri a tavola, ma anche di grande salute. Ci sono degli studi condotti ma dagli americani stessi, perché poi non dimentichiamoci che è stato un certo Angel Case, un medico americano, che ha riportato in Italia la dieta mediterranea, andando a studiare che cosa mangiavano i nostri vecchietti in Sicilia o in Campania. Insomma, questo è arrivato in Italia per un mandato americano che doveva studiare la dieta dei soldati che andavano a portare la pace in giro per il mondo, e che gli diamo da mangiare, è venuto in Italia, ha visto al tempo della guerra o prima della guerra, ha visto i nostri vecchietti che saltavano giù dal somaro e ha detto: se lo fa mio nonno in Wisconsin si spacca la gamba in 4 pezzi, come mai questi sono così elastici? E ha scoperto che mangiavano che cosa? L'insalata con l'olio, i fagioli con l'olio, l'arancio con l'olio. Ha detto: aspetta un attimo, che meraviglia, è l'olio. Era l'olio, che meraviglia. Celletti, grazie, noi ci fermiamo qua perché per ora, perché questa questione dell'olio tornerà sicuramente. Adesso dobbiamo dare più prosaicamente le informazioni sul traffico, però insomma è appassionante, almeno a me mi appassiona sta vicenda, a parte che l'olio poi tutti i giorni a tavola ce l'hai sotto il naso e quindi vogliamo sapere se è italiano o tunisino. Esatto. Traffico. Eccoci qua, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sentiamo sabato. Sentiamo un ascoltatore prima di andare in Norvegia, dove come sempre ne stanno preparando delle belle. Sergio da Firenze, buongiorno. Sergio? Sì, buongiorno. Ecco. Buongiorno. Niente, io volevo dire una cosa veloce. Ormai una ventina d'anni fa io ero un dirigente. Si abbassa la radio, diciamo... Sergio, perché abbiamo il ritorno dell'audio. Ma non ho la radio. E allora sentiamo uno strano eco. Proviamo, Sergio? Sì, ora mi sente bene? Vada, vada. Dicevo, circa 20 anni fa io ero un dirigente, tra virgolette si potrebbe dire rampante in un'azienda, e stavamo aumentando le nostre... In realtà è vero, sento anche io la voce che mi ritorna. Ma adesso noi la sentiamo benissimo, non si preoccupi. Bene. Allora, dicevo, dovevamo aumentare le nostre filiali, quindi assumemmo delle persone. Io, fra l'altro, ero, fra le altre cose, dirigente, responsabile del personale. Mm-hmm. Dopo un mese o due l'azienda cambiò idea e chiese di licenziare le persone, e chiaramente quelle che si poteva licenziare legalmente erano quelle in prova, quindi quelle assunte un mese prima. Sì, certo. E niente, io passavo una settimana di grande difficoltà, perché erano gente che si era licenziata da altri posti per venire da noi. E alla fine decisi di non farlo, e in alternativa, visto un problema di costi, gli proposi le mie dimissioni al posto di quelle di queste persone. Ah, ma, ci picchia. Ma è un eroe. Lei aveva un'alternativa, che... aveva un altro lavoro, sapeva... No, assolutamente. Io sarei andato, non per la strada, insomma, avrei dovuto trovare un'alternativa, che non era facile, fra l'altro. Perché, però insomma... lei la viveva così, era talmente angosciato da questa cosa che preferì dire licenziate me, ma no. E come andò a finire? E tant'è che, per esempio, prima di prendere decisione andò a parlare anche con un prete, era quello, diciamo, no, ma come andò a finire, Sergio? Scusa, perché abbiamo poco tempo, esatto. Dobbiamo chiudere. Come andò a finire? Andò a finire che rifiutarono le mie dimissioni, non fu licenziato nessuno, e io poi dopo 6-7 mesi andai via. Va bene, beh, è finita tutto sommato anche bene, anzi, questo no, quindi Sergio possiamo dire che è servito a lei per sentirsi meglio, e poi forse anche ha smosso qualcosa nell'azienda e che ha deciso di tenere, di cambiare le carte in tavola. Bene, adesso grazie. Norvegia. Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo con Frankie High Energy Pedala. Solo un accenno, perché abbiamo 3 minuti e c'è... Parliamo di biciclette. C'è Jan Roglien, buongiorno, che ci aspetta. Buongiorno, buongiorno. Ciao, buongiorno. Jan. Jan o Jon? Perché io faccio sempre... Jon. Non è né Jan né Jon, ma è Jon. È Jon. È ovvio. Allora, Giovanni, è la stessa cosa. Giovanni. Allora, d'ora in poi io quasi ti chiamo Giovanni, perché così facciamo prima. Allora, la notizia è questa. La Norvegia, che ormai insomma, ha preso una piega ecologica, di sostenibilità, auto elettriche, biciclette, 8 miliardi di corona, 1 miliardo di euro investiti. In Norvegia sono tanti, perché non siete un paese grandissimo, per le autostrade delle biciclette, Jon. Sì. 8 miliardi di corone, sono 1 miliardo di euro. 1 miliardo di euro, sì. No, quello che devono fare è fare delle specie di super piste ciclabili, con due corsie, per fare che in modo che si può tranquillamente passare quelli lenti e quelli veloci. Insomma, fare una cosa molto effettiva per fare la gente andare in bici. Insomma. Però il concetto dell'autostrada, proprio. Esatto, per collegare non tanto all'interno della città, ma una città con l'altra. Sì, no, ma diciamo la città con l'Interland, no? Con l'Interland. In modo che quelli che abitano, che so, mezz'ora di macchina... Sì. Possono invece mettere un'ora in bici. In bicicletta. Vuol dire chi abita intorno alla città. Non è che si va da Napoli a Roma. Ok, avevo già capito già male. Già un'ora mi sembra tanto. Già sarà che sbagliamo, ma abbiamo quest'idea anche che lì ci sia spesso la neve, il ghiaccio. Quindi l'idea di farsi un'ora di strada in bicicletta. Non so, ci sono anche le catene per le biciclette? No, ma ci sono le ruote. Le ruote da neve, le ruote sì, con ma i chiodi. Pensaci, quando vai in montagna vai a sciare, tu stai 2 o 3 ore nel freddo, perché in bici tu prendi caldo, no? Giusto, allora, vero. Quello è un mito che non si può andare in bici di inverno. No, è come andare a sciare. È vero, bello. Sono io che sono pigro. Sì, ma infatti è quello anche il progetto, perché è una cosa di sanità della gente, esatto, no? Perché se la gente va in bici tutti siamo molto meglio, no? Beh, mia mamma direbbe attenzione, perché poi sudi moltissimo. Noi con tutto quel siamo freddo. Sempre contenti di queste notizie che vengono dalla Norvegia, sono tante, continueremo a chiederti di farci da voce narrante. Grazie Ion, dobbiamo chiudere tutto per oggi, dobbiamo anche dire chi vince il gioco di oggi. Però il cervellone della redazione ha deciso chi vince? L'ultimo ascoltatore? No, l'altro? L'altro, Claudio? Sì, signore. Claudio da Roma, quello sì, che signori. Ha rinunciato a fare il capo reparto. Sì, signore. Vince lui! È tutto, ci risentiamo domani! Cari ascoltatori, grazie Andrea Piana, Claudia Schiattone, un saluto da Alessio Maurizio. E da Carlo Gabardini. A chi ci ascolta in podcast, ciao!